e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e benvenuti. Se avete già un diavolo per capello, lunedì basta poco per andare su tutte le furie. Chiamateci, diteci di che colore è, perché oggi, prendendo spunto dalla scoperta del gene del capello grigio, parliamo di peli e capelli, di barba, baffi e sopracciglia. Allora accomodatevi, facciamo servizio completo pelo contro pelo. Parleremo del colore, ma anche del diametro di questi annessi cutanei, della loro fisiologia, ma anche delle loro bizzarrie e di quelle che siamo disposti a fare per tenerli attaccati in testa, nel caso dei capelli, o per liberarcene, parlo del pelo. Quindi 800 24 00 24 per brizzolati, biondi, bruni, rossi, calvi, tinti, stempiati, per glabri e pelosi, per epilati e depilati, vi aspettiamo. Orsetti. A far venire molti diavoli in tutti i capelli nei giorni scorsi è stata la notizia, ne abbiamo già parlato in alcune puntate la settimana scorsa, ma devo dire che qua bisognerebbe trovare chi non ne ha parlato di questa faccenda, e cioè il recepimento di una direttiva europea in base alla quale, con il mancato pagamento di 7 rate del mutuo, la banca sarebbe autorizzata ad entrare in possesso appunto di questa abitazione senza passare dal tribunale, cioè senza le vecchie procedure esecutive. Le lamentele e anche un po' di indignazione non hanno tardato a farsi sentire, molti hanno parlato di un'arma di ricatto che veniva data in mano alle banche. Poi queste rate, un po' come i capelli, Nicoletta, sono ricresciute e nella bozza di recepimento della direttiva attualmente in lavorazione sono passate da 7 a 18. Allora, noi oggi torniamo su questa vicenda non tanto per riepilogare esattamente la questione del mutuo e cosa succede se non paghi 7 o 18 rate, ma faremo un lavoro a monte, partiremo proprio dalla direttiva europea che l'Italia sta recependo, perché siccome è una direttiva estremamente tutelante per il consumatore, noi abbiamo voluto capirci qualcosa di più. Cosa cambierà dunque per i consumatori? 800 24 00 24, cominciate a prenotare i vostri interventi anche su questo tema. Grigio, nebbia, mista, pioggia, grigia di smog. L'hanno scoperto e gli hanno assegnato la sua sigla, un nome di battesimo, perché anche i geni ne hanno uno. Quello dei capelli grigi è IRF4, non fa tutto da solo, deve contare su altri collaboratori, fattori che al momento non sono stati individuati. In ogni caso, i ricercatori che da tempo erano sulle sue tracce non hanno dubbi. È IRF4 il responsabile di quel processo che, privando i follicoli piliferi dell'apporto di melanina, li ingrigisce progressivamente, li sbianca. Allora, c'è chi fa di necessità virtù e, cavalcando la moda del momento, sfoggia fiero la sua chioma argentata, chi a caso in un salone di parrucchiere si attrezza con tinte più o meno indovinate. Voi che fate? E cosa ne pensate della moda dei capelli grigi e di chi invece si tinge, e degli uomini in particolare, perché non sempre indovinano il colore giusto? Gli esempi non mancano, ve ne viene in mente qualcuno? 800 24 00 24, oggi spettegolezziamo un po'. Intanto restate con noi, iniziate a chiamare se volete raccontarci vita, morte, miracoli, speriamo solo miracoli, delle vostre chiome, e aggiungiamo anche dei vostri peli. Che ne fate di loro? Come li tenete a bada? Quali sono quelli che vi sembrano indomabili? Intanto saluto la nostra ospite di oggi, la dottoressa Anna Trink, dermatologa del Poliambulatorio San Luca di Udine, che è tornata a trovarci. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito rinnovato. Allora, dottoressa, non è solo colpa degli anni, ma anche i geni ci mettono lo zampino. Risultato, i nostri capelli più o meno precocemente imbiancano, proprio come capita con la nostra stampante. Quando finisce il toner, i nostri capelli, esaurita la cartuccia colore ricevuta in dotazione da madre natura, progressivamente si sbiancano. Questo è, in parole povere, il risultato della ricerca da cui prendiamo spunto di oggi. Ma ce la vuole commentare? Certo. Si tratta di uno studio molto interessante, diciamo, sia per la scoperta in sé sia per le prospettive future. Perché? Perché potrebbe permettere, modulando l'espressione genica, di ritardare o addirittura di evitare l'incanutimento. Lo studio è stato condotto da un team internazionale che ha selezionato poco meno di 6.500 soggetti latinoamericani, ma diciamo di residenza, nel senso che avevano origini europee, africane o nativi americani, quindi uno studio multietnico. Anche questo è molto interessante, perché l'età media di incanutimento dipende molto anche dalla razza d'appartenenza. Hanno sequenziato il loro DNA per poter evidenziare se esistono delle correlazioni tra particolari geni espressi e tra caratteristiche fenotipiche dell'individuo, soprattutto appunto le caratteristiche dei capelli, della barba o delle sopracciglia. Ed è stato questo che ha permesso di isolare questo gene IRF4 di cui parlavi prima, Perché? Perché sarebbe in grado di determinare l'incanutimento regolando la sintesi della melanina, che è questo famoso pigmento responsabile della colorazione dei capelli. Quando la melanina cessa di essere prodotta per mezzo di questo gene IRF4, il capello cessa di essere colorato e quindi cresce bianco. Allora, 800 24 00 24, il nostro numero, che in questo caso è verde, per tutte le vostre domande. A me il brizzolato piace, te lo dico già. Anche a me. D'altra parte, non sono solo i geni a farci ingrigire i capelli, anche l'ambiente fa la sua parte e lo sappiamo bene, lo stress scolora. Pensate a Barack Obama, 8 anni di presidenza, gli hanno fatto ingrigire i capelli, no? In modo molto evidente. Sta benissimo così, ma la differenza salta un po' agli occhi. Dottoressa Trinchi, il potere logora e sbianca, ma si può fare qualcosa? Sai come si diceva? Grande rispetto per una testa ricoperta da capelli bianchi, dicevano gli antichi, quindi magari non è stress ma è acquisizione di saggezza, potremmo metterla così. No, in realtà ci sono delle cose preventive che si possono fare, tenendo conto che per esempio l'età media di insorgenza dell'incanutimento nelle nostre popolazioni, quelle caucasiche, è circa i 35 anni, si possono adottare delle misure che possono ritardare un pochino la comparsa di questo processo fisiologico. In che modo? Da un lato, tenendo presente che l'incanutimento, esattamente come qualunque altro processo di invecchiamento, è mediato da quello che si chiama stress ossidativo, dai radicali liberi di cui tanto sentiamo parlare. Quindi sarebbe possibile, integrando la nostra dieta con elementi antiossidanti, cercare di ritardare questo fenomeno, quindi soprattutto vitamina E, resveratrolo, pignogenolo, glutatione, oppure viceversa negli alimenti, quindi i frutti rossi, il cacao, fondente al 100%, sono gli alimenti che hanno un alto potere antiossidante, quindi contrastano questa azione dei radicali liberi. Allo stesso modo, favorire un'alimentazione ricca di proteine, proteine in particolare le uova, in particolare la frutta secca o il pesce, perché? Perché sono ricchi di fenilalanina, che è questo aminoacido essenziale. Queste sono tutte indicazioni per soggetti sani, ovviamente, teniamolo presente, ricche di fenilalanina, che è un aminoacido essenziale che fa parte integrante del processo di sintesi della melanina. D'altro canto, invece, è possibile utilizzare delle lozioni a base di quelli che si chiamano fattori di crescita, che sono delle celluline che mantengono vitale il ciclo del capello e quindi è come se, prolungando la sua fase di crescita, prolungassero indirettamente anche l'attività di sintesi della melanina. Allora, avete registrato tutto? 800 24 00 24, mandateci anche i vostri messaggi al 349 238 6666 o scriveteci su WhatsApp, come ha fatto Max, che ci scrive che un'amica ha definito la sua folta chioma 50 sfumature di grigio. Che bello! Allora vogliamo anche la foto su WhatsApp, potete mandarla senza spendere nulla. Allora, ci sono leggende metropolitane sullo sbiancamento dei capelli. Il primo è raccontato da un modo di dire, no? Mi sono venuti i capelli bianchi dalla paura. Dottoressa Trinchi, è vero? È possibile? Oppure sono leggende metropolitane? Beh, dipende dalle tempistiche, nel senso, come dicevamo prima, lo stress è un meccanismo in grado progressivamente di accelerare questo stress ossidativo e quindi portare a un incanutimento precoce, questo è certamente vero. Non è vero che è in grado di farlo in poche ore, infatti c'è sempre il citato esempio quando si parla di capelli bianchi repentinamente comparsi di Maria Antonietta, no? Che la notte prima di essere stata ghigliottinata avrebbe scoperto, si sarebbe risvegliata con i capelli completamente bianchi. Ecco, in questo caso si pensa, dal punto di vista scientifico, che si trattasse piuttosto di un'alopecia areata, che è tutto un altro filone, ma è una malattia autoimmune che attacca primitivamente i capelli pigmentati e è molto sottoposta a fenomeni di stress acuto, quindi può darsi che lei abbia perso tutti i capelli pigmentati e che siano rimasti sopravvissuti, tra virgolette, soltanto quelli bianchi. Intanto noi, prima di andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, andiamo a salutare Vincenzo da Modena. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Che in realtà ci chiama per sua moglie. Esatto, sto chiamando da Modena per mia moglie. Mia moglie va in piscina. Brava. Tutte le sere, quindi la domanda che noi ci ponevamo, siccome è già un cuoio capelluto abbastanza debole, se c'era qualche cosa che si potesse usare proprio per come devo dire, per proteggere i capelli magari dall'azione, esatto, dall'effetto del cloro. Vincenzo, resti con noi, venga con noi, anzi ci accompagni a sentire le informazioni sul traffico. Ritorniamo subito dopo con i consigli della dottoressa Anna Trinchi e sentiremo naturalmente anche Emilio da Cuneo. A tra poco. Cuore e denari. Come porti i capelli, bella bionda, tu li Scusi, porti alla bella marinara. Guardi, di solito io i capelli me li fa. Dipende allora molto. Oggi, barba e capelli, servizio completo, parliamo di capelli, i ricercatori hanno individuato il gene responsabile dei capelli grigi e parliamo anche di peli, anche loro ingrigiscono, una ragione in più per molti per eliminarli. In realtà, al di là di quello che possiamo pensare, anche i peli servono. Ne stiamo parlando con la dottoressa Anna Trinca, dermatologa del Poliambulatorio San Luca di Udine, a cui chiediamo di dare un aiuto al nostro amico che ci scrive, che ci ha chiamato da Modena, per così assicurare i capelli della moglie che frequenta una piscina e quindi teme che il cloro possa in qualche modo danneggiare la chioma. Dottoressa Trinca. Beh, l'osservazione è pertinente, in effetti il cloro potrebbe essere un po' aggressivo sia sul fusto che sul cuoio capelluto. Allora le indicazioni che diamo in questi casi sono alcune di come dire, comune buon senso, quindi l'importanza di sciacquare immediatamente dopo la frequentazione della piscina capelli e molto bene il cuoio capelluto, perché anche questa magari è una banalità, ma ricordiamoci appunto che i capelli sani dipendono da un cuoio capelluto sano. Poi quello che si può fare è utilizzare prima dell'ingresso in piscina sempre delle lozioni che sono le più comuni oggi, sono quelle di più recente ricerca così scientifica, sono quelle a base di rocce vulcaniche che abbiano un effetto quindi minerale, tra virgolette, di protezione del cuoio capelluto. Mi dica bene, rocce vulcaniche, ma cosa leggiamo in etichetta? Esatto, e dove le troviamo? Zeolite si chiama. Si chiama? In particolare, zeolite. È un derivato di una roccia vulcanica che è in grado, è quella per esempio che è stata utilizzata, perché forse il riferimento è un po' più noto, per depurare Fukushima, dopo le acque di Fukushima, dopo l'esplosione della centrale nucleare, no? Quindi hanno rocce generalmente che hanno un potentissimo potere assorbente, uh-huh, e quindi sono in grado di fare meccanicamente un effetto barriera, ma anche dal punto di vista, diciamo, chimico, di assorbire sostanze potenzialmente dannose per il cuoio capelluto. Questo vale anche per l'inquinamento, per esempio. No? Certo. Inquinamento atmosferico di tutti i giorni, ma questo può valere anche per possibili sostanze irritanti che si trovano in acqua. È vero che l'acqua un po' porta via, ok? Quindi questo per quello è importante dopo la piscina utilizzare eventualmente, anche qui sono lozioni galeniche che si possono far formulare in farmacia a base di acido ialuronico o tocoferoli, che siano in grado di reidratare un cuoio capelluto potenzialmente irritato dal contatto con il cloro. Andiamo a Emilio da Cuneo. Buongiorno Emilio, benvenuto. Pronto, buongiorno. Non è Cuneo, è Mango, provincia di Cuneo. L'hanno un paesino. Allora, mi scusi un Emilio, paese. Anzi, ci hanno segnalato da Cuneo, ma noi siamo contenti di salutare anche Mango, un piccolo paese a cui mandiamo i saluti, così li uniamo anche agli amici di Portici. Che ci... No. No, non lo conosciamo Emilio, ma siamo felici benissimo, che ce lo faccia benissimo conoscere lei. Grazie. Allora, si paesino, mangerà anche la panna cotta libero. Metri, sul livello del mare? Sì. 1300-1400 abitanti. Sabato pomeriggio ha nevicato ben bene e poi è gelato, per cui la neve è ancora praticamente tutta presente. Ci faccio... ci mandi una foto di Mango, Emilio, la postiamo sul nostro d'accordo, profilo. D'accordo. Grazie. Allora, torniamo alle chiome. Sì. Io ho i capelli bianchi perché in famiglia abbiamo i capelli bianchi. Sì. E una volta, 10-12 anni fa, ero a una fiera a Milano, una fiera abbastanza importante, ero in uno stand molto importante, seduto a un tavolo dove stavo leggendo con mia moglie delle notizie, si siede una signora di fronte a me e mi dice, mi guarda, e io dico, boh, chissà cosa è venuto fuori. Sì. Dice, finalmente una persona che ha il coraggio di portare i capelli bianchi. Io l'ho guardato e ho detto, signora... E lei si era un po' ringalluzzito e sua moglie ha detto, occhi a terra. No, assolutamente, le ho detto, guardi, lei sapesse che fatica ho fatto a trovare un parrucchiere o una parrucchiera che trovassero la formula giusta per farmi venire i capelli bianchi, lei non ha idea, finalmente l'ho trovata. Tra l'altro, Emilio, sì, perché sono sia i capelli bianchi sia i capelli grigi sono abbastanza difficili da portare e soprattutto da mantenere. Per questo in chiusura ci raggiungerà un grande esperto, un parrucchiere che tratta le teste più famose d'Italia, del mondo dello spettacolo, e chiederemo naturalmente consigli. Dottoressa Trinca, a parte il colore, ci sono degli indicatori, degli indizi che segnalano una sofferenza eventuale delle nostre chiome, perché il capello bianco è un capello senza melanina, ma può essere un capello assolutamente sano. Quindi, oltre al colore, quali altri indizi ci danno le nostre chiome che non dobbiamo sottovalutare? Secondo me i segnali che possono fare preoccupare andrebbero divisi in due settori: uno che riguarda il cuoio capelluto, come ho detto già più volte in questa intervista, e l'altro invece che riguarda i capelli in senso stretto. Per il cuoio capelluto, quello a cui dobbiamo fare attenzione sono le variazioni, cioè i segni di possibile infiammazione, quindi l'arrossamento, la comparsa di piccole pustole o papule persistenti, perché ecco, occasionalmente sono fenomeni che possono interessare chiunque. Se invece persistono nel tempo, devono richiedere una visita specialistica, soprattutto se associati a sintomi di infiammazione, quindi non solo un prurito particolarmente persistente, ma anche quella che nello specifico si chiama tricodinia, cioè il dolore al cuoio capelluto quando si spostano i capelli. Per quanto riguarda i capelli in senso stretto, invece, la caduta persistente, si dice che una quantità fisiologica di capelli persi al giorno è di circa 60-70 capelli, quindi il test esatto da fare sarebbe quello di contare quelli che si perdono al lavaggio. In realtà io credo che tutti noi abbiamo una percezione di qual è la nostra normale caduta. Quando la caduta sembrasse eccessiva per un tempo prolungato che supera il mese, allora quel momento è quel momento di preoccuparsene. Oppure, anche in assenza di una caduta significativa, quando ci si accorge di un diradamento o, e questo è più tipico delle donne in postmenopausa, di un significativo arretramento dell'attaccatura frontale. Queste sono tutte ragioni per cui è bene consultare un dermatologo. Intanto potete formulare la vostra domanda alla dottoressa Trinca, come fa Luigi, che ci chiama dalla provincia di Imperia. Buongiorno Luigi, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutte. A voi complimenti per la trasmissione, ve lo dicono tanti. Ne approfitto per fare gli auguri, anche se il giorno prima, a tutte le donne. Bravo, che ci stanno ascoltando, e a voi. Grazie, grazie, grazie di cuore, grazie. Luigi. Grazie. Volevo dire niente, che mi avete richiamato, che praticamente io ho 52 anni, ho cominciato giovane, verso i 40 anni a cominciare a diventare grigio, e mi dava fastidio sta cosa qua. A un certo punto mi sono dato la tinta praticamente ai capelli, l'ho tirata lunga 3 anni, adesso sono contento, è già 3 anni che non lo faccio più, 3-4 anni, e sono tornato grigio come prima, sono veramente contento, mi sento meglio anche con il rapporto con le insomma, perché la tinta non lo faceva sentire a suo agio, insomma. No, mi guardavano in modo come dire che ha capito. Sì, perché è difficile la tinta per un uomo, no? Indovinare la giusta sfumatura. Ci sono delle tinte nero pece improponibili, esatto. O anche in uomini che hanno questa tinta, come la chiama il mio parrucchiere, rosso menopausa. Esatto, rosso. Ecco, terribile. Allora Luigi, grazie per essere stato con noi. Dottoressa Trink, vogliamo parlare anche dei cugini dei capelli, cugini diversi che sono i peli. Sì, certo. Posso permettermi solo di dare un consiglio a Luigi, anche se non richiesto? Sì, ci ha fatto gli auguri. L'unica cosa che differenzia in realtà i capelli bianchi, che tra l'altro anche a me esteticamente piacciono molto, dai capelli normalmente pigmentati, è la resistenza ai raggi ultravioletti. Quindi magari non siamo ancora in stagione, ma l'unica cosa che possiamo aggiungere per chi ha i capelli bianchi e ha ragione di tenerseli tali è di stare solo attenti a proteggerli meglio dal sole, perché non avendo la melanina subiscono maggiormente i danni fotoindotti. Quindi questo adesso sì, parliamo di peli. Sì, tra poco parleremo di peli, perché adesso andiamo a sentire le informazioni sul traffico, le informazioni del nostro GR, e poi ci raggiungerà un grande stilista per darci dei consigli per chi i capelli li volesse tingere. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Cuore e denari. Non capisco perché sia tanto difficile confermare un appuntamento. Lo so, mi dispiace, Miranda, veramente l'ho confermato ieri sera. I dettagli sulla tua incompetenza non mi interessano. Dì a Simone che non intendo approvare la scelta della ragazza per il servizio brasiliano. Io l'ho chiesta pulita, atletica, sorridente. Lei Amanda Priestley, alias Meryl Streep, nel Diavolo Veste Prada. L'avete sicuramente riconosciuto. Beh, una chioma magnifica di capelli grigi, di chiome brizzolate, di peli, di barba. Stiamo parlando oggi, in questa prima parte di trasmissione. Siamo partiti dallo studio condotto dai ricercatori dell'University College di Londra che hanno scoperto il gene che fa ingrigire i nostri capelli. In linea con noi abbiamo la dottoressa Anna Trinc, dermatologa del Poliambulatorio San Luca di Udine. Dottoressa, abbiamo per noi Cecilia che ci chiama da Verona. Ci ha aspettato per tutto il GR, come stanno aspettando i nostri saluti, Deborah, le amiche del bar Rendezvous a Portico di Caserta, esatto, che le salutiamo perché sono delle affezionatissime fans. Grazie. Okay. Ciao, allora, Cecilia, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah e buongiorno alla dottoressa Trinc, grazie di farci compagnia. Io volevo porre una domanda. Ho i capelli sul biondo rosso, e ho 29 anni e tra i 18 e i 20 anni mi è venuta una mesh bianca e adesso che ho 29 anni sta cominciando a venirmi tanti capelli bianchi e non li ho ancora, non ancora da tingerli. Volevo chiedere sulla mesh se è dovuta a dello stress o a qualche evento particolare o è una cosa normale, perché poi credo che ci sia nel mio caso forse anche una componente genetica sui capelli bianchi, nel senso che a mio padre, che aveva i capelli come i miei, sono venuti molto presto i capelli, sì, bianchi, perché sono 20-22, così. Cecilia, chiediamo subito, ecco, un aiuto alla dottoressa Trinc. Buongiorno Cecilia, sì, effettivamente è un po' l'argomento del giorno, nel senso che i capelli bianchi o la loro comparsa può dipendere dallo stress, può dipendere da fattori ambientali, ma è certamente geneticamente determinato. Allora il fatto che tu riferisca se tu stessa una predisposizione familiare alla comparsa di capelli bianchi in età precoce, effettivamente può essere anche questa la ragione anche per te della comparsa in così giovane età. L'età media in genere per i caucasici è circa 35 anni, ma possono esserci casi in cui la comparsa di capelli bianchi preceda questa data. Esistono anche delle forme particolari in cui ci sono isolati di capelli bianchi che possono comparire in realtà fino a partire dall'infanzia per dei disturbi di sintesi della melanina, come ad esempio il piebaldismo, ma probabilmente il tuo caso, siccome riferisci stanno comparendo anche altri capelli bianchi, può essere soltanto una forma di incanutimento precoce. Allora magari i consigli sono quelli che dicevamo prima: attenzione al sole e certo, sì a una dieta ricca di antiossidanti che può un pochino ritardare questo meccanismo. E intanto vogliamo salutare, che è in linea con noi, un amico, Roberto D'Antonio, l'hairstylist più gettonato delle dive di casa nostra e non solo. Benvenuto Roberto, grazie. Ciao, buongiorno a tutti. Roberto, con te alcuni suggerimenti per portare con orgoglio la nostra chioma. Partiamo proprio dal grigio, 50 sfumature a parte. A chi consigli questo colore di capelli? Che Ma è molto io... difficile anche da mantenere. Sbaglio? Ma io consiglio alle donne che vogliono rimanere bianche qualche sfumatura, ecco, o di grigio o di biondo chiarissimo o addirittura di coloratissimo, cioè tipo rosato, anche azzurrato, celeste, viola, però non lasciare la loro chioma così senza colore, senza un accenno di cura, perché lo trovo veramente una cosa tutta vecchia e non elegante. L'eleganza è curarlo ugualmente anche se bianco. Nel corso della puntata, Roberto, noi abbiamo parlato di tinte. Ci dai tre suggerimenti per fare la scelta giusta, perché tante teste, tanti colori, ma cosa fare per non sbagliare? E ci rivolgiamo soprattutto agli uomini che a volte sì, sfoggiano delle tinte improponibili, no? Il nero pece, il giallo polentino. Questo non l'avevo vista mai. Mamma mia, Roberto, se ne vedono di tutti i colori. Sì. Purtroppo per cultura vediamo delle cose in giro veramente paurose. Sei in imbarazzo anche tu. Sì, in imbarazzo anche perché ci sono dei personaggi che non sono stati mai neri nell'arco della loro gioventù e improvvisamente diventano neri. Oppure marroni e non sono stati mai marroni. Allora, il consiglio è o lasciare il grigio scurirlo man mano con leggermente, con delle sfumature di colore che vanno dal grigio più scuro al castano, però che possono togliere il bianco forte dei capelli, oppure addirittura fare delle tinte, ma delle tinte ammoniaca, leggere, con delle sfumature di colore che ti appartengono, cioè che sei castano, certo. Perché no, le donne devono essere castane, l'uomo deve essere nero, no, l'uomo è castano, l'uomo è biondo, è come la natura ti ha dato, devi conservarlo. Per cultura l'uomo è nero e biondo, non c'è una via di mezzo. Invece ci sono tante sfumature, non solo di grigio, Roberto. Tante sfumature di colore, sì. Senti, da Sabrina Ferilli, Isabella Ferrari, Claudia Gerini, Valeria Golino, aggiungo anche Laura Morante, Mario Martone, Paolo Sorrentino e ovviamente Fiorello, che ha twittato le foto con te durante la realizzazione del suo ultimo taglio di capelli. Roberto, noi siamo molto contenti che tu abbia accettato di partecipare a Cuore Denari, perché così ci racconti un po' anche i segreti di questi VIP che tu prendi un po' per i capelli. Ci puoi raccontare chi ti ha dato più filo da torcere, di chi invece sei stato soddisfatto e a chi cambieresti proprio la chioma? La testa non si può cambiare, almeno i capelli. Guarda, se ti mandiamo la foto io e Nicoletta e ci dai qualche suggerimento anche per noi, quindi chiuse le per richieste. Cominciamo da chi cambierei la chioma, sicuramente Massimo Ranieri. Che è un uomo secondo me così bravo, così bello, ma non capisco che continuano a avere a tingere di nero i capelli neri, cosa che io ho visto delle foto e che più o meno non sono, ho 54 anni, mi ricordo che era un ragazzo castano chiaro, non nero. Dunque, quindi se Massimo ci stesse mai ascoltando, vorrei darle una mano. Roberto è pronto. Perché è troppo un gran personaggio. Sì, è straordinario. Condividiamo totalmente. Peccato quei capelli. E invece altre persone che mi hanno più torce, no, guarda, veramente nel mio lavoro il filo da torce è per tutti i giorni, non c'è la diva o il divo che ti dà problema, cioè è tutti i giorni davanti a uno specchio, la donna o l'uomo c'ha un momento di abbandono e con te si preoccupa di essere aiutato. Dunque, è perché un colore di capelli può cambiare veramente un po', no? Tutto un po' vita, lo stile anche. Ti può dare o togliere veramente qualche cosa. E allora noi cerchiamo tutti i giorni di consigliare la cosa meno violenta, meno aggressiva, però poi dopo c'è anche la giornata e il periodo che uno vuole trasgredire fortemente e viva. Ma tutto si può fare. Senti, ormai. Roberto, se dopo Massimo facciamo un saltino in America per Donald Trump, sì. Perché Enzo ci suggerisce inguardabile, è vero? Inguardabile, e io aggiungerei anche inascoltabile, ma questo però, è un parere mio, chiudo la parentesi. Ha un'attaccatura che ha dell'incredibile, che cosa gli vuoi fare, poverino? Lì basterebbe cambiare il colore, non basterebbe cambiare il colore, forse avere lì avrà sicuramente dei piccoli interventini di trapianto. Un ascoltatore ci scrive che ha un castoro sulla testa, morto un castoro sulla testa, insomma. Roberto, orribile, avendo poi una donna così bella vicino, dunque ma non credo che si sia innamorata dei capelli. Vedi la donna di Denari che parla. Io invece però c'hai ragione, però pensa che stupidità mettersi una donna così bella vicino. Io non me la metterei mai così a quel livello, perché veramente risalta ancora di più la sua bruttezza, capito? Ci voleva una mezza bruttezza. Allora, senti Roberto, una volta che veniamo a Roma, negli studi di Roma devi venire da noi. Ce la fai una piega veloce così un po', grazie. Perché così raccontiamo un po'. Grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Dottoressa Trink, in due minuti, vogliamo anche parlare dei peli, anche loro ingrigiscono? Sì, è inevitabile. Però loro certo. hanno tutta una vita che sembra un po' al contrario di quella dei capelli, no? Perché i capelli si assottigliano, i peli invece sembrano rincicirsi, irrobustirsi. Chi perde i capelli però si trova spesso anche dei petti, parlo di uomini villosi, oppure schiene pelosissime. Adesso arriva l'estate e la caccia al pelo si apre. Siamo disposti a tutto. Ci sono persone, allora cerette, rasoi, trattamenti più definitivi, ma... eliminarli completamente, come raccontano alcune pubblicità, è possibile o no, dottoressa? Allora, ha ragione che pelle e capelli seguono un meccanismo di regolazione esattamente opposto, perché l'effetto ormonale che hanno estrogeni o androgeni negli uomini su peli e capelli è esattamente opposto. Quindi è vero che tutto quello che fa crescere i capelli su base ormonale fa cadere i peli e viceversa. Sì. È possibile eliminarli definitivamente i peli? Non è possibile. Non è possibile eliminarli completamente. Ecco, quindi non dobbiamo crederci, certo. Esatto, nel senso che quando un pelo viene colpito da un laser, cioè di questo che stiamo parlando, che è nella sua fase di crescita, è vero che viene distrutto definitivamente, cioè quel pelo non crescerà più. Il problema qual è? Che ci sarà sempre circa un 20% di peli che è nella loro fase di vita terminale, il cosiddetto telogen, che anche se colpiti dal laser non vengono distrutti definitivamente e ricrescono. Quindi la risposta vera è: possiamo eliminarli definitivamente, ma non completamente. Ci sarà sempre una piccola percentuale di peli che non riesce a essere colpita dai nostri meccanismi, perché è sempre nella sua fase terminale del ciclo del capello, del pelo. Allora, se volete saperne di più, volete scrivere per le vostre domande, la dottoressa Trinca sarà lieta di rispondere. Naturalmente dedicheremo una puntata doc a tutti i nostri peli, alle pellicette. Esatto. Dottoressa Trinca, la ringraziamo per essere state con noi. Buona giornata, grazie. Grazie a voi. Grazie. Ricordo che molti di voi hanno raccolto l'invito di partecipare a questo programma. Moltissimi! Ah, ecco, perché qua non pariamo più le mail. Cioè. Allora, cosa abbiamo pensato di fare? A tutti coloro che hanno mandato, come da richiesta, la loro mail entro le 12 di sabato 4 marzo, il programma sta in arrivo, sì, via mail. Il programma Riduci Pancetta. Sì, 4 settimane con i consigli del dottor Speciani e del suo team. Per tutti gli altri, sono stati tantissimi che ci hanno scritto, continuano a scriverci, state all'occhio, perché nel corso della settimana ci inventeremo con Debora un'iniziativa di ripescaggio. Bene, per riapriremo cui la vostra pancia il è assicurata. Grazie. Ottimo, andiamo adesso alle amenità di denari del lunedì. Volentieri. Andiamo. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso mutuo. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo. Sì, è tempo di cambio tema, ma fino ad un certo punto, perché quello di cui parliamo oggi è il tema più gettonato degli ultimi giorni, sui giornali, in banca, in Parlamento, casa espropriata se non si pagano le rate. Questa è la sintesi brutale che è passata nella testa di molti. Noi vorremmo ritornare su questo argomento, su questa notizia, ripartendo però dal ragionamento che sta a monte, ovvero qual è tutto il contenuto di questa direttiva europea, la numero 17 del 2014, che l'Italia sta recependo. Perché a ben conoscerlo, a leggere il documento e a giudicare anche dai commenti di chi ha studiato a fondo la norma, dicono che in realtà sia un provvedimento a forte tutela del consumatore. Allora, come mai allora, come dire, il nostro paese ha fatto questo scivolone intermedio? Dove sono le tutele? Che cos'altro ci dobbiamo aspettare? Per spiegare bene i termini della questione abbiamo interpellato due tecnici della materia. Il primo è un tecnico vero a 360 gradi. Saluto e ringrazio l'avvocato Andrea Ciani, membro del comitato di gestione dell'OAM, che è l'organismo degli agenti e dei mediatori creditizi. Avvocato, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. E naturalmente non potevamo farci mancare anche la parola delle associazioni dei consumatori che stanno vigilando su questo recepimento e hanno prontamente sollevato negli ultimi 10 giorni la questione dei mutui e l'esproprio della casa per gli inadempienti. Buongiorno e ben ritrovata ad un amico di Cuore Denari che è Fabio Picciolini, ha la responsabilità di tutto il settore bancario e finanziario di Adiconsum, che è la più grande associazione dei consumatori del nostro paese. Picciolini, ben ritrovato. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Quanto si è divertito con questa direttiva in questo periodo? L'avrà fatto anche l'avvocato Ciani, ma su di lei io immagino già un ghigno sulla faccia un po' più perfido. Pochissimo, perché è una direttiva su, che bisogna approfondire molto, perché purtroppo non tanto la direttiva quanto il decreto di recepimento ha parecchie cose su cui discutere e non solamente sulle 7 o 18 rate. Esattamente, ha fatto bene a precisarlo, questo è il motivo per cui noi abbiamo fatto la trasmissione, perché ci è sembrato persino che sollevando solo quell'aspetto tutta la portata della direttiva e il suo recepimento fosse banalizzata. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per i nostri ascoltatori, ai quali chiedo: vi siete mai ritrovati ad essere insolventi nel pagamento del mutuo? Ce ne sono state tante di famiglie in difficoltà negli ultimi anni e noi ne abbiamo parlato, abbiamo tanto dedicato spazio a loro, parlando tantissime volte, Fabio Picciolini lo sa bene, della moratoria sui mutui, che è un'iniziativa che va avanti dal 2007 e che ha permesso a tante famiglie, migliaia e migliaia, di sospendere temporaneamente il versamento, appunto il rimborso del mutuo, e quindi di avere un po' di respiro nel bilancio familiare. Poi questa moratoria è stata sostituita dal fondo di solidarietà, ha più o meno lo stesso funzionamento, dura un po' di più, ma permette appunto alle famiglie che non ce la fanno di sospendere momentaneamente il mutuo. Però se voi siete in questa situazione adesso, che iniziative immaginate di prendere? Oppure state per sottoscrivere un mutuo? Quali sono le preoccupazioni che vi hanno fatto nascere le notizie degli ultimi giorni? Quindi queste le domande per voi. Comincio con l'avvocato Ciani, che è un legale che conosce molto bene il credito al consumo, tutto questo mondo, e vorrei ricordare peraltro che in passato l'avvocato Ciani era nello staff del viceministro dell'economia Roberto Pinza, che già coordinò a partire dal 2007 un'altra riorganizzazione legislativa nel settore mutui e prestiti, che sempre aveva un'origine europea. Allora, avvocato Ciani, le chiedo, visto che lei partecipa a tanti convegni in cui deve fare questo lavoro, qual è il contenuto nei suoi passaggi fondamentali della direttiva della discordia? Allora, devo dire che in questo caso abbiamo assistito veramente ad un'operazione, devo dire, un po' ingiusta nei confronti della direttiva, che è stata in sostanza additata come responsabile di questo tentativo di facilitare l'esproprio, i meccanismi di esproprio della casa. In realtà la direttiva non prevede assolutamente questo, al contrario, la direttiva di cui stiamo parlando è un provvedimento che muove da due finalità che sono esplicitate proprio nella parte di apertura del testo, che sono: primo, garantire un'elevazione del livello di protezione dei consumatori, in particolare per il mercato ovviamente dei mutui ipotecari; secondo, promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito che diventi più trasparente, più efficiente a livello europeo. È venuto fuori la tematica del recepimento della direttiva in questi giorni proprio perché stanno preparando in Parlamento il decreto. In realtà quel testo, che ha credo anche un altissimo spessore, direi anche dal punto di vista culturale degli scopi che questa persegue, è quel provvedimento è la conclusione di un percorso che è iniziato nel 2003 con una prima attività di verifica di quali erano gli ostacoli nel mercato europeo alla diffusione di un equo ed efficiente mercato dei mutui, e si è sviluppato fino al 2014 con quel provvedimento. Questa contiene tutta una serie di input agli stati che essenzialmente vanno in una direzione: non si potrà mai avere un mercato dei mutui che funzioni fin tanto che i consumatori non torneranno a avere fiducia nel mercato finanziario. Io ho la direttiva sotto gli occhi e devo dirle che effettivamente me la sono riletta. Non è proprio, come dire, una lettura appassionante su cui trascorrere il fine settimana, però ecco, anche nella velocità di voler fare questa lettura non ho proprio trovato effettivamente il punto, ma magari avvocato me lo cita lei, su cui poi c'è stato questo accanimento di questi giorni. Quindi vorrei anche capire il governo come ha fatto a tradurre nella modalità in cui ha fatto la norma sull'esproprio, appunto il punto in cui la direttiva prevederebbe l'esproprio di una casa in caso di inadempienza. Ho notato invece tanti punti in cui si parla a lungo anche di educazione finanziaria del consumatore, sulle modalità corrette con cui gli intermediari devono trasferire le informazioni per chi sottoscrive un mutuo, quindi pochi documenti, informazioni chiare. Su questo la direttiva è estremamente esplicita, per cui effettivamente anch'io la reputo una direttiva che va a totale tutela del consumatore. Dopodiché, Picciolini, dove si perda di vista la situazione non lo capiremo mai. Ma dunque, diciamo che la direttiva, è come diceva l'avvocato Ciani, che saluto peraltro, è sicuramente indirizzata verso la tutela dei consumatori, anche inserendo alcune innovazioni rispetto a ciò che avviene oggi. Penso ad esempio alla valutazione dell'immobile. Il punto è, a mio avviso, che c'è stata una cattiva informazione, come spesso capita, su questo aspetto che non troverà mai scritto, lei non troverà mai scritto 7 o 18 o un altro, esatto, importo. Quello che lei troverà, adesso non mi chiede l'articolo chiaramente, no, ma guardi, che, non c'è, che c'è la necessità di un accelerare il tempo del recupero dei crediti non pagati, non onorati. Questo è stato tradotto dal governo italiano in questa formula di superare in parte, ma lasciandolo in maniera comunque a regime, il vincolo dell'articolo 40 del testo unico bancario, dove si prevedeva che entro 40 anni la banca potesse far decadere il cosiddetto beneficio del termine, ovvero richiamare il prestito perché non pagato. La novità rispetto a questa norma già esistente è che non serve il giudice, ma è la banca che può acquisirlo direttamente senza ricorso, certo, al giudice. Ma detto questo, sulla direttiva, sì, ma anche quello comunque non implica una procedura automatica, nel senso che 7 rate o 18 adesso non si pagano in automatico, la banca bussa alla porta del debitore e va ad espropriare la casa solo perché non c'è il passaggio dal giudice. Anche lì non sarà così automatico, perché poi anche su questo dovremmo discutere. Ma io allora, ci sono alcune banche che già dopo 2-3 rate fanno questa operazione già oggi, quindi non è il discorso dell'automaticità, io non ci vedo affatto, anzi, arrivando a 18 rate e sapendo come funziona i tribunali italiani, probabilmente non sarà neppure conveniente in alcuni casi ricorrere a questa formula, però sicuramente vanno trovate anche qui delle soluzioni. Faccio un esempio estremamente semplice e poi torno al decreto. Dopo 18 mesi la banca acquisisce l'immobile, benissimo, e se non lo vende? Che cosa succede? Si torna alla procedura precedente? Il prezzo è fissato da un perito? Certamente sì, e quindi ci sono parecchie cose che poi debbono ancora essere riviste anche dopo questa modifica. Certo. Ma tornando al decreto, faccio tornare Picciolini dopo, perfetto, la nostra pausa, perché siamo già in ritardo sulla tabella di marcia, devo andare a vedere oggi cosa sta succedendo in borsa. Questa direttiva, dicevo, è molto articolata, prevede anche tutta una serie di passaggi relativamente, per esempio, proprio alle perizie che devono essere fatte sugli immobili per erogare il mutuo. C'è tutto il tema del ruolo degli agenti immobiliari come segnalatori alle banche di pratiche in base alle quali può scaturire un mutuo. Anche questa è una parte molto importante che magari al consumatore finale non passa, non interessa, ma invece adesso vi racconteremo con Andrea Ciani i punti fondamentali che anche su questa questione dovete conoscere. Intanto 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori. Questa misura vale per i mutui che verranno sottoscritti in futuro, quindi se siete in questo momento in ritardo con un mutuo, la casa non vi viene espropriata dalla banca se siete in ritardo per 18 rate. Vi spiegheremo che cos'altro potrete fare, ma state tranquilli che quantomeno in questo momento non riguarda voi. Cuore e denari. Il mutuo è quando chiedi soldi alla banca. E come funzionare? Come funzionare? Ancora? Ve l'ho già spiegato. Allora, se tu volere i soldi dalla banca, loro dare i soldi e fare un piacere a te, e quei soldi valere 7-8%. Se tu invece avere i tuoi soldi e mettere in banca in conto corrente, fare un piacere alla banca, ma non si sa perché, a quel punto i soldi valere 1-1,5%. Ma allora, e se voi il terzo mondo? Grandissimo questo passaggio, non mi ricordo da quale film è tratto, comunque con Leonardo Pieraccioni. Questa mattina abbiamo naturalmente, inevitabilmente, ripescato il tema mutui. È un po' come dire la questione casa, se lo affrontassimo anche tutti i giorni avremmo tante telefonate degli ascoltatori, tante richieste di suggerimenti e consigli. Ci sono molti di voi che stanno sottoscrivendo il mutuo adesso e ovviamente stanno chiedendo anche che cosa faccio, mutuo a tasso fisso, il variabile. Allora vi suggerisco intanto di tenere sotto controllo l'iniziativa del Sole 24 Ore, la guida pratica di educazione finanziaria ai tuoi soldi, domani esce il terzo numero. Il tema è proprio tenere sotto controllo i debiti, per cui vi suggerisco, anche alla luce della grande dibattito di questi giorni, di prendere questa guida. Detto questo, noi stamattina invece ci siamo presi il weekend per riflettere e per capire bene stamattina come potessimo spiegare ai nostri ascoltatori la questione famosa che ha tanto tenuto banco settimana scorsa del mutuo. mutuo, se non lo pago in 18 rate, la casa ha il diritto ad espropriarmi la casa immediatamente. Lo dice un provvedimento italiano che sta recependo un'importante direttiva europea che va a tutelare in realtà il consumatore che sottoscrive contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Spero di aver fatto di nuovo il presupposto corretto, e intanto molti ascoltatori ci stanno scrivendo: e allora, io non sto pagando perché sono in difficoltà, tocca anche me, adesso ne parleremo con i nostri ospiti. Volevo ritornare però per un attimo all'avvocato Ciani, che è appunto membro del comitato di gestione dell'organismo degli agenti e dei mediatori creditizi. Molti si chiederanno: ma perché hai chiamato questo tecnico per interagire con Cuore Denari per spiegare questo argomento? Perché questa norma interessa gli agenti immobiliari, avvocato Ciani, e i mediatori creditizi? Allora, la disposizione di cui stiamo parlando dedica grandissima attenzione al tema delle reti, cioè i cosiddetti intermediari del credito e i soggetti che distribuiscono i prodotti di credito nel nostro ordinamento. E che dovrebbero permettere ai consumatori di fare anche un'operazione di finanziamento consapevole, sostenibile per il proprio bilancio familiare e tutto il resto, no? Perfetto, perché quando c'è un intermediario del credito, un venditore coinvolto in un'operazione di questo tipo, è lui la faccia che si presenta davanti al consumatore, quindi deve dargli le informazioni prima di fare il contratto, deve spiegargli quello che sta facendo, deve quindi, nell'ambito di quella che è la capacità e l'educazione finanziaria che ha la persona che ha davanti, dargli tutti gli strumenti per fare una decisione corretta e prendere una decisione corretta e consapevole. Anche da questo punto di vista mi piace fare una sottolineatura per una volta a favore del nostro paese. Se si guarda la direttiva si vedono tutta una serie di nuovi, diciamo, standard minimi che dovrebbero riguardare i requisiti per fare questo mestiere, no? Cioè vendere, distribuire prodotti di mutuo nell'Unione Europea. Quali sono, avvocato Ciani, così almeno sappiamo bene quando andiamo a chiedere una consulenza di questo tipo, che cosa ci dobbiamo aspettare da chi ci troviamo di fronte? Allora, essenzialmente sono tre gli elementi che la direttiva richiede, e sono: avere standard, diciamo, di competenza, quindi di professionalità accertata attraverso, in pratica, un piccolo esame; un secondo, requisiti di onorabilità, quindi non può vendere mutui chi ha riportato provvedimenti di condanne o di altro tipo che facciano venire meno una garanzia di affidabilità e onorabilità. Con tutta la bella situazione che c'è tra le banche in questo momento, già abbiamo dato una bella pulita al settore, ok, chiusa esatto. Parentesi. E da ultimo avere una copertura assicurativa, che anche questa a livello comunitario è una novità, poiché se qualcuno di questi operatori poi danneggia o ottiene condotte irregolari, il consumatore o chi è danneggiato può essere risarcito. La sottolineatura che volevo fare io è questa: che tutto questo nuovo impianto di requisiti nuovi e la previsione di un obbligo di istituire in ogni paese un soggetto che controlla il possesso di requisiti, in Italia c'è già dal 2010, quindi per una volta l'Unione Europea ci dice di fare delle cose sulle quali l'Italia è in anticipo da anni. È un po' quel provvedimento cui accennava poco fa lei, che fu messo, diciamo, in cantiere nel 2007 e nel 2008 e che nel 2010 è diventato legge. Mm-hmm. Quindi questo perché quel tema della fiducia dei consumatori nel sistema finanziario e nel mercato dei mutui tiene moltissimo ovviamente in considerazione il comportamento di chi li va a vendere questi prodotti. Ecco perché diventa fondamentale che questi abbiano comportamenti responsabili e regolari. Mm-hmm. Allora, intanto invito di nuovo i nostri ascoltatori, se chiamate per candidarvi al programma, ci sono poi i nostri ragazzi che vi richiamano e qualcuno di voi non risponde, per cui vorrei capire se avete piacere o meno appunto di interagire con noi in diretta per raccontarci quello che vi sta succedendo. Volevo segnalare al nostro Marco e a Laura in regia che ci sono per esempio arrivate delle telefonate molto presto di Arturo ed Alessandro, che ci stanno ponendo una questione che secondo me è molto interessante, perché hanno delle rate semestrali di mutuo con le quali sono in ritardo. Per cui anche lì significa che se tu non ne paghi 18 di seguito, Picciolini, presidente, avvocato, le ho dato 5.000 cariche in questo momento, nostro amico di Adiconsum. Ecco, no, questa è una cosa interessante effettivamente. Allora, per chi è in ritardo in questo momento non ricade sotto la nuova normativa, questo chiariamolo, deve fare dell'altro. In futuro invece, secondo lei, questi 18 mesi come verranno calcolati? 18 rate non pagate, mi scusi. È una delle cose da chiarire. Diciamo che implicitamente, considerato come vengono calcolati i ritardati pagamenti, dovrebbe essere mensile, quindi 18 mesi al calendario. Un anno e mezzo. Però anche questa è una cosa che non c'è scritta. Però mi permetta di dire due cose veramente in un minuto. Sì. La prima: questa direttiva, che è importantissima, come diceva l'avvocato Ciani, però come obbligo, ovvero come direttiva di massima armonizzazione, come si dice, sì, ha solo 3 punti, gli altri sono, possono essere modificati a livello nazionale. I 3 punti sono un modello europeo di informazione, che si chiama Prospetto Informativo Europeo Standardizzato, PIES. Il PIES, esatto, avevo anche una domanda pronta per voi su questo tema. Il calcolo del TAEG, e il terzo aspetto su cui devo dire il recepimento non mi piace, mi sembra sia molto marginale, sono le informazioni precontrattuali, cioè rispetto a ciò che riporta la direttiva c'è un sunto nel decreto di recepimento, e questo è il primo. Su questi aspetto, 3 punti, diciamo, l'Italia deve recepire in maniera, esatto, abbastanza dettagliata rispetto a quanto dice la direttiva, su molti, esatto, altri punti ha più libertà. Esatto, questo è il primo punto secondo me molto, molto importante. Il secondo punto è quello relativo proprio a come vengono venduti questi prodotti, perché a fronte di una situazione che aveva trovato ormai una soluzione, a mio avviso, abbastanza normale e giusta, quella dell'OAM sugli agenti e i mediatori creditizi, viene un po' rimesso tutto quanto in discussione, perché vengono create delle nuove figure che invece sembravano uscite un po' dalla porta e sembra che rientrano dalla finestra. Per esempio il segnalatore, era stata una vecchia battaglia, adesso io non voglio, capisco che alcune categorie professionali possono dover avere bisogno di, diciamo così, di avere un rapporto diretto con la banca, però ecco, anche qui va segnalato, come si può dire, va detto che deve essere fatta, certo, una normativa secondaria estremamente, esatto, precisa. Allora lo importante, vorrei spiegare anche ai nostri ascoltatori che magari in un segnalatore si sono imbattuti ma non avevano avuto la percezione che si trattasse di una figura di questo tipo. Io vado in un'agenzia immobiliare perché lì ho deciso di scegliere la casa che loro intermediano, quella dei miei sogni. Non riesco a trovare il mutuo, l'agente immobiliare può dirmi: guarda, vai o da questa banca o da questa banca, perché noi siamo d'accordo che segnaliamo certe persone che hanno bisogno. Cioè, adesso la banalizzo molto e l'avvocato Ciani avrà un diavolo per capello, naturalmente, però il tema è questo. In realtà poi è stato stabilito che l'agente immobiliare non possa più fare l'attività di segnalatore, e adesso a quanto pare invece questa direttiva europea ripropone l'argomento a favore degli agenti immobiliari in quanto segnalatori. Avvocato Ciani, in 5 secondi, e così poi dopo il traffico glielo faccio argomentare bene. In realtà la direttiva lascerebbe margini ancora più ampi, perché di fatto dice che chiunque fa un'attività, certo, di mera presentazione o segnalazione di un cliente a una banca fa un'attività che non è necessariamente sottoposta ad abilitazione, quindi non solo l'agente immobiliare, ecco, ma potrebbe essere. Quindi se mi chiama mia zia che ha bisogno del mutuo, io posso indirizzarla o a Banca Intesa o Unicredito, alla banca di Canicattì? Diciamo che lo Stato italiano potrebbe consentirle di fare, certo, perché non disciplina la questione, esatto, e quindi io direi che forse ha ragione Picciolini, che un attimo una normativa che dia qualche regola di condotta è necessaria, almeno secondo me, poi approfondiremo anche questo. Quindi questo per dirvi, avete capito quante cose ci sono in questo provvedimento? Altro che 7, 14, 21, 28 rate non pagate, ce ne sono tanti di argomenti. Adesso il traffico, tra poco. Cuore e denari. Allora, se ho ben capito, lei vuole un prestito per comprare una casa. Esatto. Di 100 milioni. Esatto. Vede, però io purtroppo non la conosco personalmente, quindi... Io, dottore, nemmeno io la conosco personalmente, però mi fido. Stia, si rilassi. Sì, sì, capisco. No, vede, il problema, lei sa come funzionano le banche? Ha qualche idea? Certo. Così, beh, molto semplice, molto semplice. È tutto un problema di garanzie. Cioè, poi, prestito... Ma mi faccia terminare, perché non vorrei passare per questi profittatori che c'è oggi. Io questi 100 milioni non sono il tipo che lei mi dà 100 milioni per la casa, io li prendo e non mi rivedo. No! Direttore! Non sono quel tipo lì! E non gli permetto nemmeno di pensare! Roberto Benigni super indignato, ma in realtà qualche famiglia negli ultimi anni si è trovata in questa improvvisa condizione di non poter più rimborsare il mutuo. E allora Fabio Picciolini, voi di Adiconsum vi siete fatti portabandiera qualche anno fa delle iniziative per le famiglie non più capaci, appunto, di rimborsare. Siete stati promotori della famosa moratoria per le famiglie, che era anche denominata avviso comune per le aziende, che pure sono state in molte circostanze non capaci di rimborsare i loro prestiti. È vero che per il recepimento della direttiva europea come associazione dei consumatori non siete neanche stati presi in considerazione per essere ascoltati, nessuno ha chiesto la vostra consulenza? È verissimo, però mi permetta prima di dire la terza cosa che non ho detto prima, che nel decreto di recepimento è sparito l'articolo 6 della direttiva su cui noi teniamo, lei lo sa perfettamente che ci ha anche cortesemente intervistato, è sparito l'articolo sull'educazione finanziaria e questo ci ha mandato abbastanza ai pazzi, come si mi ha fatto venire il diavolo per capello di cui abbiamo parlato all'inizio. Esatto. Ma tra l'altro, avvocato Ciani, qua chiedo a lei che ha anche esperienza in questo senso, in traduzione legislativa di provvedimenti di vario tipo. Allora, che tempi ci sono adesso? Nel senso, secondo lei, quando sarà sottoscritto il primo mutuo che ricade sotto la nuova norma? A settembre, a dicembre nel 2017? Che tempi ci sono per il recepimento di questa direttiva? Ma in realtà la direttiva prevede un termine di recepimento molto breve, cioè aprile, metà aprile, no? Entro la fine di marzo, perché addirittura. Questa risale al 21 di marzo, è entrata in vigore nel 2014, quindi a breve deve essere recepita. Poi mi aspetto che, come al solito, il nostro ordinamento preveda magari qualche decreto attuativo, qualche provvedimento di dettaglio che porterà via un altro po' di tempo. Non penso che ad aprile avremo già dei mutui sottoposti a questa nuova disciplina. No, infatti, secondo me prima del 2017 non avremo niente in termini contrattuali che contempli anche le nuove norme. Allora, gli ultimi minuti di tempo tutti dedicati ai nostri ascoltatori. Matteo da Lodi, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Avevo bisogno di un'informazione. Io è da qualche mese che pago il mutuo con dai 3 ai 5 giorni di ritardo, sì, perché purtroppo la mia azienda ha spostato il mio pagamento, il mio stipendio di 5 giorni certo, e quindi non ho quella copertura. Volevo sapere, uno, se insomma se è una cosa abbastanza grave o se mi può succedere qualcosa. Allora, credo intanto loro... Matteo, le chiedo, la banca le ha mai contestato questo ritardo? Perché no, dipende... no, ecco, esatto, io dipende. Io mi sono presentato alla banca dicendo di avere questo problema e che avrei Bravo. Pagato da lì le avrei poi. Suggerito questo, intanto di andare ad anticipare il problema alla banca, poi secondo me non è... Sì, io ho parlato, devo dire la verità, una signorina che è allo sportello che mi ha detto comunque di pagarlo il prima possibile, che grossi problemi non ce n'erano, però non era esattamente il direttore. Certo. Era una che lavorava lì, quindi non so se mi ha detto anche la cosa esatta. Comunque lei sta pagando regolarmente, Matteo, pertanto mi sembra di capire che non abbia, ritardi incancreniti, no? Come dire, ecco, no, quindi esatto, stia tranquillo. Volevo sapere più che altro che se può succedere qualcosa. E un'ultima cosa, eventualmente, se c'è la possibilità di saltare una o due rate e poter accodare a fine mutuo. Allora, Matteo, qua deve rinegoziare tutto, però ecco, questo è un po' più complicato di passaggio. Picciolini, questo è tema suo, è allora, il suo territorio. Sono tre risposte abbastanza complicate. Mi spiace, ma l'addetta bancaria non ha detto una cosa esatta, perché il signore già rientra in quello che esiste, cioè nell'articolo 40 del testo unico bancario, dove le 7 rate valgono per un ritardato pagamento e non per il mancato pagamento. Quindi se la banca volesse, non credo che lo farà, ma se la banca volesse potrebbe già dopo 7 ritardi vabbè, ma anche per un mutuo vecchio già sottoscritto? Sì, questo è già previsto dal testo unico bancario, questo è il fatto. Ah, okay, no. Il secondo aspetto, il ritardato pagamento dopo potrebbe portare a un'iscrizione in un sistema di informazione creditizi, nelle vecchie centrali rischi, diciamo così. Quindi io consiglierei al signore di andare in banca e rinegoziare o quantomeno rinegoziare la data del pagamento della rata. Esatto, così... faccia spostare quello, il prelievo diretto in banca, quindi Matteo quantomeno per tutelarsi, anche se loro hanno dato la massima disponibilità a chiudere un occhio, Picciolino, lei dice no, guarda, è meglio non fidarsi. No, non mi fido. Sulla terza invece è un momento più complicato. Allora, innanzitutto fino al 2017 si può chiedere a fronte di alcune situazioni la postergazione, cioè lo spostamento a fine rata del pagamento, a fine mutuo della rata di pagamento. Però deve rinegoziare però tutto. Però ci devono essere delle condizioni specifiche, tipo il licenziamento, tipo una grave malattia, tipo l'abbassamento del 30% della rata, l'aumento del 30% della rata. Quindi su quello lo consiglio di passare presso un'associazione dei consumatori, io ovviamente consiglio di Consum per un consiglio più preciso. È vero, però Picciolini, io le dico anche un'altra cosa. Io capisco che lei naturalmente dà dei consigli che tutela tutelino totalmente il consumatore, certo. Per cui fate tutto secondo passaggi formali in modo tale da non trovarvi nelle grane in futuro. È anche vero che secondo me molto spesso è questione di disponibilità del singolo direttore, del singolo sportello, perché c'è una mia amica che è in grande difficoltà, è già la terza volta che sospende per 12 mesi il mutuo. Teoricamente, secondo i profili di legge che abbiamo in questo momento, non sarebbe possibile. La sua direttrice di banca, pur di non andare a pignorare, ipotecare e tutto, le sta venendo incontro in ogni modo, per cui in realtà poi qua sì, noi firmiamo 5 milioni di documenti, siamo attenti a fare tutto, però poi in realtà, ecco, magari questa impiegata in totale buona fede, vedendo questa persona in una minima difficoltà, le ha dato un suggerimento per non farlo preoccupare più di tanto, però sempre bene. Allora, non riusciamo a sentire Vincenzo da Salerno e Biagio da Napoli perché siete arrivati per ultimi. Avvocato Ciani, chiedo a lei l'ultimo contributo per i nostri ascoltatori. Cos'altro dobbiamo sapere di questa direttiva? Il PS, ce lo dice in 5 secondi che cos'è? Il PS è un documento standardizzato che consentirà quindi a tutti i consumatori dell'Unione Europea di ricevere informazioni uniformi sul tipo di mutuo che stanno andando a stipulare. Questo serve essenzialmente per garantire un altro degli scopi della direttiva, che è assicurare la comparabilità delle offerte, perché se tutte le banche mi propongono nello stesso modo le informazioni sul mutuo, io, se sono sufficientemente informato e diligente, diciamo, come consumatore, poi vado a raffrontarle e cerco di individuare qual è la migliore, possibilmente grazie a un consulente che mi dice. Grazie a Fabio Picciolini e all'avvocato Ciani per essere stati con noi. Noi vi salutiamo, torniamo domani sempre alla stessa ora, 10:30. Buona giornata a tutti.